ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Sono passati molti anni, pieni di guerra e di quello che si usa chiamare la storia. Spinto qua e là all'avventura, non ho potuto finora mantenere la promessa fatta, lasciandoli, ai miei contadini, di tornare fra loro. E non so davvero se e quando potrò mai mantenerla. Ma chiuso in una stanza e in un mondo chiuso, mi è grato riandare con la memoria a quell'altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla storia e allo Stato, eternamente paziente. A quella mia terra senza conforto e dolcezza, dove il contadino vive nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà su un suolo arido, nella presenza della morte. «Noi non siamo cristiani», essi dicono. «Cristo si è fermato a Eboli». Cristiano vuol dire, nel loro linguaggio, uomo. E la frase proverbiale che ho sentito tante volte ripetere, nelle loro bocche non è forse nulla più che l'espressione di uno sconsolato complesso di inferiorità. Noi non siamo cristiani, non siamo uomini, non siamo considerati come uomini, ma bestie. Bestie da soma e ancora meno che le bestie, i fruschi licchi, che vivono la loro libera vita diabolica o angelica perché noi dobbiamo invece subire il mondo dei cristiani che sono di là dall'orizzonte e sopportarne il peso e il confronto. Ma la frase ha un senso molto più profondo che, come sempre, nei modi simbolici, è quello letterale. Cristo si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, nell'anima individuale, nella speranza, nel legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia. Cristo non è arrivato, come non erano arrivati i romani, che presidiavano le grandi strade e non entravano fra i monti e nelle foreste, né i greci, che fiorivano sul mare di Metaponto e di Sibari. Nessuno degli arditi uomini di Occidente ha portato qua giù il suo senso del tempo che si muove, nella sua teocrazia statale, nella sua perenne attività che cresce su se stessa. Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore o un nemico o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina. Oggi, come 3000 anni prima di Cristo, nessun messaggio umano, divino, si è rivolto a questa povertà refrattaria. Parliamo un diverso linguaggio. La nostra lingua è qui incomprensibile. I grandi viaggiatori non sono andati di là dai confini del proprio mondo e hanno percorso i sentieri della propria anima e quelli del bene, del male, della moralità e della redenzione. Cristo è sceso nell'inferno sotterraneo del moralismo ebraico per romperne le porte nel tempo e sigillarle nell'eternità. Ma in questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale, ma è un dolore terrestre, che sta sempre nelle cose, Cristo non è disceso. Cristo si è fermato a Eboli. Thank you. sono arrivato a Gagliano un pomeriggio di agosto, portato in una piccola automobile sgangherata. Avevo le mani impedite ed ero accompagnato da due robusti rappresentanti dello Stato, dalle bande rosse ai pantaloni e dalle facce inespressive. Ci venivo malvolentieri, preparato a veder tutto brutto, perché avevo dovuto lasciare per un ordine improvviso Grassano, dove abitavo prima e dove avevo imparato a conoscere la Lucania. Era stato faticoso da principio. Grassano, come tutti i paesi di qui, è bianco in cima ad un alto colle desolato, come una piccola Gerusalemme immaginaria nella solitudine di un deserto. Amavo salire in cima al paese, alla chiesa abbattuta dal vento, donde l'occhio spazia in ogni direzione su un orizzonte sterminato, identico in tutto il suo cerchio. Sia come in mezzo a un mare di terra biancastra, monotono e senza alberi. Bianchi e lontani i paesi, ciascuno in vetta al suo colle. Irsina, Craco, Montalbano, Salandra, Pisticci, Grottole, Ferrandina, le terre e le grotte dei briganti, fin laggiù dove c'è forse il mare, e Metaponto e Taranto. Mi pareva di aver intuita l'oscura virtù di questa terra spoglia e avevo cominciato ad amarla. E mi dispiaceva di cambiare. È nella mia natura sentire dolorosi i distacchi. Perciò ero mal disposto verso il nuovo paese dove dovevo acconciarmi a vivere. Mi rallegrava invece il viaggio, la possibilità di vedere quei luoghi di cui avevo tanto sentito favoleggiare e che fingevo, nella immaginazione, di là dai monti che chiudono la valle del Basento. Passammo sopra il burrone dove era precipitata, l'anno prima, la banda di Grassano, che tornava tarda sera dopo aver suonato nella piazza di Accettura. Da allora i morti suonatori si ritrovano a mezzanotte in fondo al burrone e suonano le loro trombe, e i pastori evitano quei paraggi, presi da un reverenziale terrore. Ma quando ci passammo era giorno chiaro. Il sole brillava, il vento africano bruciava la terra e nessun suono saliva dalle argille. A San Mauro Forte, poco più in alto sul monte, avrei ancora veduto, all'ingresso del paese, i pali a cui furono infisse per anni le teste dei briganti. E poi saremmo entrati nel bosco di Accettura, uno dei pochi rimasti dell'antica foresta che copriva tutto il paese di Lucania. Lucus a non lucendo veramente oggi. La Lucania, la terra dei boschi, è tutta brulla. E il rivedere finalmente degli alberi e il fresco del sottobosco e l'erba verde e il profumo delle foglie era per me come un viaggio nel paese delle fate. Questo era il regno dei banditi e ancora oggi, per il solo e lontano ricordo, lo si attraversa con curioso timore. Ma è un regno assai piccolo e lo si abbandona ben presto per salire a Stigliano, dove il vecchissimo Corvo Marco sta da secoli sulla piazza come un dio locale e svolazza nero sulle pietre. Dopo Stigliano si scende alla valle del Sauro con il suo grande letto di sassi bianchi e il bell'uliveto del principe Colonna nell'isola dove un battaglione di bersaglieri fu sterminato dai briganti di Borges che marciavano su Potenza. Qui, arrivati a un bivio, si lascia la strada che porta alla valle dell'Agri e si prende a sinistra per una straducola fatta da pochi anni. Addio Grassano, addio terre vedute di lontano immaginate. Siamo dall'altra parte dei monti e si sale a Balzelloni a Gagliano, che non conosceva fino a poco fa la ruota. A Gagliano la strada finisce. Tutto mi era sgradevole, Il paese, a prima vista, non sembra un paese, ma un piccolo insieme di casette sparse, bianche, con una certa pretesa nella loro miseria. Non è in vetta al monte come tutti gli altri, ma è una specie di sella irregolare in mezzo a profondi burroni pittoreschi, e non ha, a prima vista, l'aspetto severo e terribile di tutti gli altri paesi di qui. C'è, dalla parte da cui si arriva, qualche albero un po' di verde, ma proprio questa mancanza di carattere mi dispiaceva. Ero avvezzo ormai alla serietà nuda e drammatica di Grassano, ai suoi intonaci di calce cadente, al suo triste raccoglimento misterioso, e mi pareva che quell'aria di campagna con cui mi appariva Gagliano suonasse falso in questa terra che non è mai una campagna. E poi, forse è vanità, ma mi pareva stonato che il luogo dove ero costretto a vivere non avesse in sé un'aria di costrizione, ma fosse sparso e quasi accogliente, così come al prigioniero è di maggior conforto una cella con inferriate esuberanti retoriche piuttosto che una che assomigli apparentemente a una camera normale. Ma la mia prima impressione era soltanto parzialmente fondata. Scaricato e consegnato al segretario comunale, un uomo magro e secco, duro d'orecchio, con dei baffi neri a punta sul viso giallo e la giacca da cacciatore, presentato al podestà e al brigadiere dei carabinieri, salutati i miei custodi che si affrettavano a ripartire, rimasi solo in mezzo alla strada. Mi accorsi allora che il paese non si vedeva arrivando, perché scendeva e si snodava come un verme attorno ad un'unica strada in forte discesa sullo stretto ciglione di due burroni, e poi risaliva e ridiscendeva tra due altri burroni e terminava sul vuoto. La campagna che mi pareva di aver visto arrivando non si vedeva più, e da ogni parte non c'erano che precipizi di argilla bianca su cui le case stavano come librate nell'aria, ed ogni intorno altra argilla bianca, senza alberi, senza erba, scavata dalle acque in buche, coni, piagge di aspetto maligno, come un paesaggio lunare. Le porte di quasi tutte le case che parevano in bilico sull'abisso, pronte a crollare piene di fenditure, erano curiosamente incorniciate di stendardi neri, alcuni nuovi, altri stinti dal sole e dalla pioggia, sì che tutto il paese sembrava a lutto o imbandierato per una festa della morte. Seppi poi che è usanza porre questi stendardi sulle porte delle case dove qualcuno muore e che non si usa toglierli fino a che il tempo non li abbia sbiancati. In paese non ci sono veri negozi né albergo. Ero stato indirizzato dal segretario, in attesa di trovare una casa, a una sua cognata vedova che aveva una camera per i rari viandanti di passaggio e che mi avrebbe anche dato da mangiare. Erano pochi passi dal municipio, una delle prime case del paese, così, prima di dare un'occhiata più approfondita alla mia nuova residenza, entrai dalla vedova per una delle porte a lutto, con le mie valigie e il mio cane Barone, e mi sedetti in cucina. Migliaia di mosche anneravano l'aria e coprivano le pareti. Un vecchio cane giallo stava sdraiato in terra, pieno di una noia secolare. La stessa noia e un'aria di disgusto, di ingiustizia subita e di orrore stavano sul viso pallido della vedova, una donna di mezza età, che non portava il costume, ma l'abito comune delle persone di condizione civile, soltanto con un velo nero sul capo. Il marito era morto 3 anni prima, di una brutta morte. Era stato attratto da una strega contadina con dei filtri d'amore ed era diventato il suo amante. Era nata una bambina e poiché egli a questo punto aveva voluto troncare la relazione peccaminosa, la strega gli aveva dato un filtro per farlo morire. La malattia era stata lunga e misteriosa. I medici non sapevano che nome darle. L'uomo aveva perso le forze ed era diventato scuro nel volto, finché la sua pelle divenne del colore del bronzo, sempre più nera, ed egli morì. La moglie, una signora, era rimasta sola, con un ragazzo di 10 anni e poco danaro, con cui doveva ingegnarsi a vivere. Per questo affittava la stanza. La sua condizione era così intermedia tra quella dei galantuomini e quella dei contadini. Aveva insieme degli uni e degli altri le maniere e la povertà. Il ragazzo era stato messo in collegio dai preti a Potenza e ora era in casa per le vacanze, silenzioso, ubbidiente e mite, già segnato dall'educazione religiosa, con i capelli rasi e il vestitino grigio del collegio abbottonato fino al collo. Ero da poco nella cucina della vedova e le chiedevo le prime notizie del paese quando si batté alla porta e alcuni contadini chiesero timidamente di entrare. Erano 7 o 8, vestiti di nero, con i capelli neri in capo, gli occhi neri, pieni di una particolare gravità. «Tu sei il dottore che è arrivato ora?» mi chiesero. «Vieni, che c'è uno che sta male!» Avevano saputo subito in municipio del mio arrivo e avevano sentito che io ero un dottore. Dissi che ero dottore, ma da molti anni non esercitavo, che certamente esisteva un medico nel paese che chiamassero quello e che perciò non sarei venuto. Mi risposero che in paese non c'erano medici e che il loro compagno stava morendo. Possibile che non ci sia un medico? Non ce ne sono. Ero molto imbarazzato. Non sapevo davvero se sarei stato in grado, dopo tanti anni che non mi ero occupato di medicina, di essere di qualche utilità. Ma come resistere alle loro preghiere? Uno di essi, un vecchio dai capelli bianchi, mi si avvicinò e mi prese la mano per baciarla. Credo di essermi tratto indietro e di essere arrossito di vergogna questa prima volta, come tutte le altre poi nel corso dell'anno in cui qualche altro contadino ripeté lo stesso gesto. Era implorazione o un resto di omaggio feudale? Mi alzai e li seguì dal malato. La casa era poco discosta. Il malato era sdraiato in terra vicino all'uscio su una specie di barella, tutto vestito con le scarpe e il cappello. La stanza era buia. A malapena potevo discernere, nella penombra, delle contadine che si lamentavano e piangevano. Una piccola folla di uomini, di donne, di bambini erano sulla strada e tutti entrarono in casa e mi si fecero attorno. Capii, dai loro racconti interrotti, che il malato era stato portato in casa da pochi minuti, che arrivava da Stigliano, a 25 chilometri di distanza, dove era stato condotto sull'asino per consultare i medici di là. Che c'erano sì dei medici a Gagliano, ma non si consultavano perché erano medicacciucci, non medici cristiani. Che il dottore di Stigliano gli aveva detto soltanto di tornare a morire a casa sua. Ed ecco la casa e che io cercassi di salvarlo. Ma non c'era più nulla da fare. L'uomo stava morendo. Inutili le fiale trovate a casa della vedova, con cui, per solo scrupolo di coscienza, ma senza nessuna speranza, cercai di rianimarlo. Era un attacco di malaria perniciosa. La febbre passava i limiti delle febbre più alte. L'organismo non reagiva più. Terreo. Stava supino sulla barella, respirando a fatica, senza parlare, circondato dai lamenti dei compagni. Poco dopo era morto. Mi fecero largo e me ne andai, solo sulla piazza, donde la vista si allarga per i burroni e le valli, verso Sant'Arcangelo. Era l'ora del tramonto. Il sole calava dietro i monti di Calabria e, inseguiti dall'ombra, i contadini piccoli nella distanza si affrettavano per i sentieri lontani nelle argille, verso le loro case. Elio De Capitani ha letto Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, tecnico del suono Raffaele Stefani, regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.